珍惜水资源，让美永驻。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天十点，22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 欢迎来到歌舞剧场，我是古月。请欣赏罗西尼的两幕歌剧《意大利女郎在阿尔及尔》，创作于1812年，1813年在俄罗斯首演，这是她的成名作，也是一部著名的喜歌剧。巴尔查、拉伊蒙蒂、丹姆等演唱，阿巴多指挥维也纳国家歌剧合唱团、维也纳爱乐演出。 Thank you.

Forse verrà, ma non lo spero. Or languir per una mena e star lontan la Thank you. ai trenesi che in questi rei paesi ci ha fatto schiavo e dal mio ben lontano. Senti, italiano, può darti moglie a me che sento, oddio, ma come in questo stato? A ciò non devi pensare. Vieni e vedrai un bel volto, un bel cuore, con tutto il resto. Oh, povero amor mio, che imbroglio è questo? Se pigliasse per le foglie, ci vorrebbe tante cose. Se pigliasse per le foglie, ci vorrebbe tante cose. Oh, aspetta il tempo scose. Aspetta il tempo scose. Le potrebbe carina. Ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose, ci vorrebbe tante cose. Una felicità sposa, una felicità sposa. Le potute camminare. Vuoi bellezza, vuoi ricchezza, grazie, amore, ti consola. Trovi tutto in questa sola, trovi tutto in questa sola. È una donna singolar, è una donna, è una donna singolar. Vuoi ricchezza, vuoi bellezza, vuoi ricchezza, vuoi bellezza, vuoi amore, vuoi amore, vuoi amore, ti consola. Trovi tutto in questa sola, trovi tutto in questa sola. È una donna, è una donna, è una donna singolar, è una donna singolar, è una donna singolar. E sento la vorrei schietta, e poi è tutta lei, è tutta lei. Per esempio io vorrei i tuoi negli occhi. Sono due stelle, sono due stelle. Fiore nere, guance belle. Fiore nere, volto bello. Ed ogni parte a cui mi inciampo, che da dire che la fare. Caro amico, non ti scappo, se la vede la cascata. Ogni parte mi compare, caro amico, non ti scappo, che da dire che la fare. Se la vede la cascata, la cascata, la cascata, la cascata, la cascata.

ciel bene chiaro riscattato pur ora dei momenti di qua partir vorresti in Italia tornar alla mia patria a qual grazia o oh, signor che di più non chiedo che quel vi la conduci e te il concedo che dici di va in campo del vascello il capitano a ricercare e dia nome mio che egli di qua non parta senza di voi io mi tolga umani a si odiato soggiorno tutto dentro a cercar vado e ritorno dove dentro lasciarmi nell'Italia tu sarai bene viva viva il bene e che direte a lì liete novelle una delle più belle spiritose italiane che belle caduta d'estè con altri schiavi è in nostra mano or mi tengo da più del gran sultano e le vino adesso con l'italiano tu puoi apprezzarti a partire Dulma con essi tu puoi andrai con questa signorina me la voglio godere e agli uomini tutti oggi insegnare io voglio di queste belle a calpestar l'orgoglio C'ha di solito d'ore nel vento agitore a bambare mi sento un ignoto sale contento che mi trasporta e brillare mi fa un ignoto sale contento mi trasporta e brillare mi fa un ignoto sale contento mi trasporta e brillare brillare voi partite ne più m'annoiate o passeco e scarpie obbedite passeco obbedite voi la bella al mio seno mi date ma pensate a trovare la verità voi la bella al mio seno mi date ma pensate a trovare la verità sì la verità sì la verità l'acceso cor mio questo raro trionfo non avesso quanto dolce quest'arma sarà al mio foto al trasporto al desio non resiste l'acceso cor mio questo raro trionfo non avesso quanto dolce a quest'arma sarà Voi partite, m'annoiate, obbedite, m'annoiate, o passeco, non passarvi, obbedite, obbedite. Al mio foco, al trasporto, al desio, non resiste l'acceso cor mio, questo caro trionfo novello quanto dolce a quest'alma sarà quanto dolce a quest'alma sarà sarà sarà quest'alma quest'alma sarà quanto dolce a quest'alma sarà sarà sarà quest'alma quest'alma sarà quanto dolce quest'alma sarà quanto dolce quest'alma sarà quest'alma sarà quest'alma Madama,

ventura, o che muso s'avete, che taglia sua bisogno, quel fio soffare, o che muso, o che pezzo, che figura, o che pezzo, sta vedete quel che ho tolto, sta bisogno, ma il in Thank you. Fuggir dobbiamo insieme, quegli stesso vascello qualche ragione.